La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e benvenuti all'appuntamento con la storia e la memoria. L'approfondimento di Dino Pesole è dedicato al fotografo Adolfo Porri Pastorella. Ospite ai nostri microfoni Vania Colasanti, autrice del libro Scacco Matto, la stravagante vita di Adolfo Porri Pastorella, il padre dei fotoreporter italiani, appena pubblicato da Marsilio. Radio 24, in collaborazione con History Channel, in seguito vi farà ascoltare un radiodocumentario dedicato alla classifica dei gadget che hanno cambiato il mondo, stilata dalla rivista americana Popular Mechanics. La parola adesso va a Dino Pesole. Ecco, sempre il solito fotografo. Sempre il solito presidente del Consiglio. È la mattina del 5 maggio 1938. A inscenare questo breve scambio di battute sono da una parte Benito Mussolini, dall'altra un fotografo, Adolfo Porri Pastorella. Quella mattina il duce non poteva certo immaginare, salendo a bordo della corazzata Cavour, prima di attraccare al porto di Napoli, che al suo arrivo avrebbe trovato i giornali con le fotografie che lo ritraevano a bordo. Porri, come lo chiamavano tutti, con la sua inseparabile Leica, era lì accanto a lui, uno scambio di battute che metteva in luce un'antica ruggine tra i due. Porri in realtà non gli dava tregua, ma quel giorno Mussolini aveva altro cui pensare. Sulla nave, oltre a lui, era salito un altro Adolfo, ben più potente del fotoreporter. La Marina voleva sbalordire Hitler durante il suo viaggio in Italia. Cronache e racconti che ora ritroviamo nel libro di Vania Colasanti, Scatto Matto, la stravagante vita di Adolfo Porri Pastorel, il padre dei fotoreporter italiani, appena pubblicato da Marsilio. Ancora agli inizi del Novecento, i giornali italiani erano soliti illustrare i fatti di cronaca più salienti grazie all'abilità di qualche disegnatore. Porri Pastorel, giovane cronista in erba, ebbe nel 1906 l'audacia di proporre al direttore del Messaggero di sostituire il mezzo fotografico a matite e pennelli. In un periodo nero per la stampa italiana, come l'epoca fascista, le foto scattate e pubblicate di Adolfo Porri Pastorel rappresentavano veramente un baluardo di libertà. Egli contribuì a mostrare un volto inedito di Mussolini, offrendo alla stampa estera il destro per una efficace satira politica. Sempre da un'angolazione originale e stravagante. Sempre in bilico tra dovere di cronaca e cura dell'immagine. Adolfo Porri Pastorel ha immortalato in 9 milioni di click la storia del nostro paese. Su quella nave da guerra, e ora torniamo appunto al racconto, e ci dice Vania Colasanti, con Porri Pastorel erano saliti anche i colleghi del settore fotografico dell'Istituto Luce, l'Unione Cinematografica Educativa che aveva il compito di appoggiare il duce ed esaltarne le imprese. Nessuno di loro aveva pensato di poter sviluppare le foto prima ancora di scendere a terra. Nel chiuso di una cesta di vimini, quasi fosse un normale bagaglio, Porri aveva portato con sé una coppia di piccioni. La moglie Franca aveva dato loro un po' di mangime avvolto in un fazzoletto e una boccetta d'acqua. Una coppia affiatata come quei due colombi viaggiatori. Fra le onde riprese ogni momento di quelle manovre acrobatiche, sempre attento però a cogliere nel duce ogni sua defaianza. Schiena diritta e petto in fuori, mani sui fianchi, il volto imbronciato e all'insù, sempre. Immagini che rilevavano lo stato d'animo di Mussolini per un'Italia prossima alla guerra. Porri aspettò la sfilata di chiusura di tutte le torpediniere. Poi finse un malore e si ritirò in cabina. Il più in fretta possibile sviluppò le pellicole, ritagliò i fotogrammi, li arrotolò e li infilò in piccoli astucci di alluminio. Poi tirò fuori i due piccioni e assicurò le capsule alle loro zampe. I due piccioni volarono nel cielo di Napoli, rotta su Roma a una velocità di 50 km orari verso la colombaia di origine a Piazza Zama. La moglie di Porri era lì ad attenderli, pronta a far avere alla stampa le immagini della corazzata Cavour. Mussolini, Hitler, ufficiali e fotografi sbarcarono a terra e trovarono il Giornale d'Italia con le foto memorabili di poche ore prima. Diamo il benvenuto a Vania Colasanti, giornalista e autrice Rai, che ha scritto questo interessante libro, Scatto matto, la stravagante vita di Adolfo Porri Pastorello. Buonasera, Vania. Buonasera, Dino. Cerchiamo di ricostruire insieme la figura di questo interessante fotoreporter, il padre dei fotoreporter italiani, c'è scritto nel libro. Come nasce questo interesse per questo fotografo? Allora, Adolfo Porri Pastorello era legato alla mia famiglia, perché lui aveva appunto un figlio, Alberto, che purtroppo non tornò più dalla Russia, e prima di partire aveva sposato la cugina di mia madre, Adriana Coltellacci, e Adriana, poi appunto rimasta vedova, ha sempre mantenuto il legame con il suocero, che era appunto Adolfo Porri Pastorello, e che in qualche modo quindi era rimasta sempre affascinata, essendo rimasta vedova, la figura di quest'uomo stravagante aveva alimentato anche le sue collaborazioni in questa agenzia che era La Vedo, visioni editoriali diffuse ovunque, e così questo materiale fotografico e tanti ricordi sono poi arrivati a me. Mi sembrava giusto poter restituire memoria di quest'uomo straordinario. Allora, noi abbiamo raccontato la vicenda che avviene appunto a bordo della nave Cavour, sì. Appunto in quella mattina del 5 maggio del 38. Nel libro ci sono riportate anche con una grande dovizia di particolari e molte un supporto di documentale molto importante, anche altri episodi. Vogliamo raccontarne qualcun altro ai nostri ascoltatori? Beh, diciamo che proprio la vedova Matteotti commissionò a lui un reportage sul rapimento del marito, e quindi diciamo ci sono delle foto straordinarie che scattò in quell'occasione, così come poi lui era sempre alle costole, diciamo, del duce, quindi se lo ritrovava un po' ovunque in tante occasioni, era un po' lui era il vero cronista, e non solo perché lui era fotografo, ma anche stava molto sulla notizia, quindi si può dire che, essendo nato nel 1888 e poi scomparso nel 60, è un uomo che ha attraversato due guerre, ma non solo le ha attraversate perché le ha vissute, ma le ha anche, come dire, immortalate sia negli articoli che nelle fotografie. E io, per costruire questo libro, mi sono rivolta alla responsabile, che è Gloria Serra Zanetti, dell'archivio del Giornale d'Italia, giornale per il quale collaborava e lavorava Porri Pastorello, e quindi io mi sono fatta poi mandare tutte le scansioni degli avvenimenti che io avevo deciso di narrare nel libro, e io di ogni avvenimento ho potuto vedere esattamente quello che accadeva, quello che lui aveva descritto e quello che lui aveva poi fotografato, quindi tutti gli avvenimenti storici, e qui ecco è anche interessante la memoria, poi appunto mi rifaccio anche al vostro programma, hanno proprio una sono riportati così come erano, proprio fedelmente, come venivano riportati sul giornale. Molto interessante questo rapporto tra Mussolini e Porri Pastorello che viene raccontato nel libro. È un rapporto conflittuale, ma al tempo stesso si capisce che a Mussolini faceva anche un po' gioco questo ruolo di questo fotografo che era un po' lì dappertutto, è vero? Sì, perché poi era un po' il numero uno, e quindi siccome Mussolini era ben attento alla sua immagine, anche diciamo era attento alla propaganda eccetera, quindi è chiaro che un personaggio come lui non poteva poi non servirsene. E poi lo stesso si può dire che anche lo stesso Porri Pastorello nei confronti di Mussolini doveva poi raffigurare nelle immagini, ma anche negli articoli poi che scriveva, tutto quello che accadeva, quindi in qualche modo direi che era una sorta di amore-odio, no? Di rapporto così sia professionale, ma poi è chiaro che in qualche modo lui, diciamo, la ruggine che io, della descrizione prima che avete riportato del libro, la ruggine iniziale tra di Mussolini nei confronti di Porri Pastorel dipende dal fatto che Porri Pastorel gli fece la fotografia dell'arresto nel 1915 che venne pubblicata sul Giornale d'Italia, e quella foto chiaramente Mussolini non gliela perdonò mai, da qui questa iniziale inimicizia. Però poi è anche vero che se ne servì e commissionò Mussolini a Porri Pastorel la campagna del grano, la raccolta del ferro, quindi poi quando si rese conto che tanto non gli sfuggiva all'obiettivo di Pastorel, è chiaro che poi era lui a commissionargli tutta una serie di reportage, tanto che all'interno del libro Scatto Matto, appunto per la Marsiglia, c'è proprio un inserto fotografico ricco di fotografie che fanno parte sia del mio archivio privato ma anche degli archivi Farabola, che sono questi straordinari archivi che hanno tantissimo materiale di Porri Pastorel. Bene, grazie a Vania Colasanti per questo libro Scatto Matto, che è stato appena pubblicato da Marsilio. Buona serata, grazie. Io vi ringrazio tantissimo a voi, buona serata. La storia e la memoria. Bentornati alla seconda parte della Storia e la memoria. Radio 24, in collaborazione con History Channel, vi presenta un approfondimento dedicato alla classifica dei gadget che hanno cambiato il mondo. La rivista Popular Mechanics ha riunito un gruppo di studiosi e giornalisti di ogni angolo del mondo e ha chiesto loro di stilare una classifica dei 101 gadget che hanno cambiato il mondo. Vi sveliamo le prime posizioni della classifica, dalla lampadina alla radio, dagli aghi ipodermici alla sveglia. I gadget ci hanno condotti lontano dall'era delle tenebre, verso la luce. Vi ricordiamo che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 9 giugno, alle 8:45, su History Channel. Gadget numero 10. È stata inventata in Gran Bretagna all'inizio del 1800. La lampadina. Ma i primi esemplari duravano soltanto pochi minuti. Per una lampadina più efficiente abbiamo dovuto attendere il 1879 e Thomas Edison, la cui brillante idea ha cambiato il mondo per sempre. Per riuscire dove altri hanno fallito, Edison utilizza un vuoto con corrente molto bassa per evitare che il filamento si bruci. Il risultato? L'invenzione più geniale da quando l'uomo ha scoperto il fuoco. Tim Wu, autore di Master Switch. La lampadina rappresenta la rivolta contro gli dèi, se vogliamo metterla in questi termini. Ha totalmente cambiato l'umanità e le sue attività. All'inizio del Novecento, le fabbriche introducono i turni di notte e nell'arco di appena un decennio il numero degli articoli prodotti triplica. In poche parole, la luce elettrica di Edison cambia il volto al mondo. Da vicino e anche dallo spazio. È necessario un gadget pazzesco per battere la lampadina di Edison in questa classifica. Prima che il gadget in nona posizione fosse inventato, al mattino ci si svegliava al cantare del gallo. La sveglia. Potete odiarla o amarla, ma ha reso il mondo puntuale. Greg Allgood, ricercatore della Procter & Gamble. L'America era diventata un'enorme potenza industriale. Avevamo bisogno di far arrivare gli operai in fabbrica in orario e la sveglia arrivò al momento giusto. Fu di estrema importanza per la crescita industriale degli Stati Uniti. Ma come ogni nuova tecnologia ha un difetto. Richard Hahn, ex agente FBI. Purtroppo, questo meraviglioso gadget è stato trasformato in uno strumento di distruzione usato nella fabbricazione di bombe artigianali. Hahn ha indagato su molti casi di attentati dinamitardi in 26 anni di carriera. In molti casi gli ordigni erano dotati di un semplice orologio come innesco. Questo è un gadget trasformato in uno strumento di morte. Un noto e terribile esempio è quello dell'attentato al villaggio olimpico di Atlanta nel 1996. Richard Hahn, ex agente FBI. Si trattava del peggiore degli incubi di qualsiasi artificiere, e cioè di un ordigno esplosivo anti-uomo. Era stato riempito di chiodi per scatenare un micidiale effetto mitraglia. E il suo innesco era una comune sveglia. L'FBI attribuisce a Eric Rudolph l'esplosione, confrontando le componenti della bomba con quelle di altre da lui realizzate in precedenza. In comune avevano l'innesco collegato a una semplice sveglia. Molti dei nostri gadget sono aggiornamenti di gadget precedenti, ma quelli veramente straordinari sono quelli che aprono nuove strade. Quello all'ottavo posto ha dato vita a un'industria da 130 miliardi di dollari. Il grammofono. Jim Meigs, redattore capo della rivista Popular Mechanics. Le prime versioni del grammofono, ad esempio il sistema dei cilindri di cera di Edison, inducevano la gente a chiedersi a cosa servissero. Molti pensavano che sarebbero stati usati per registrare gli audiolibri. Ma ben presto i cilindri rivestiti di cera cedono il passo a un'innovazione fondamentale. Nel 1901 la Victor Talking Machine Company lancia un grammofono che usa dischi rotondi. La puntina è collegata a un diaframma e a una tromba acustica. Al girare del disco, i minuscoli solchi fanno vibrare la puntina. Tali vibrazioni sono amplificate dal diaframma e diffuse dalla tromba. Jim Meigs, redattore capo della rivista Popular Mechanics. Con il progredire del grammofono fu finalmente possibile riprodurre dischi musicali. Il grammofono viene mandato in pensione dalle audiocassette nel 1983, ma le vendite dei vinili sono in piena ascesa ancora oggi. 2.800.000 unità nel 2010, il record degli ultimi 20 anni. Gadget numero 7. Siete nati dopo il 1985? Probabilmente l'avete visto soltanto in vecchi film e programmi televisivi. Il telefono a disco. Jim Meigs. L'innovazione del telefono fu un sistema relativamente automatizzato. Si componeva il numero della persona che si intendeva chiamare. Quando si seleziona un numero, ad esempio il 5, il dispositivo apre e poi chiude 5 contatti elettrici posti sotto il disco. Gli impulsi sono quindi trasmessi alla compagnia telefonica per essere elaborati. Il 20 luglio del 1969 il presidente Nixon effettua una delle telefonate più famose della storia. Greg Allgood, ricercatore della Procter & Gamble. Il presidente Nixon chiamò la Luna. Fu l'impresa storica di questo gadget. Il numero 6 entra di diritto nella top 10 degli immortali, aiutando l'uomo a lottare contro le avversità climatiche, nel modo più fresco possibile. Il condizionatore d'aria portatile. I modelli precedenti erano semplici ventilatori davanti a secchi di ghiaccio. Il condizionatore d'aria da finestra viene brevettato nel 1931 e acquisisce sempre più popolarità tra gli anni 40 e 50. Nel 1953 ne vengono venduti più di 1 milione di esemplari. Al condizionatore viene spesso imputata l'espansione della cosiddetta Sun Belt, la cintura del sole. Dal 1940, 8 dei 10 stati dalla crescita più rapida si trovano nelle aree più torride del sud-est e del sud-ovest. Gadget numero 5. È difficile pensare a gadget che abbiano cambiato il mondo moderno più del personal computer. I primi modelli avevano appena 64K di RAM. Oggi sono 2000 volte più potenti. Ma come hanno cambiato la storia? L'introduzione del microprocessore, un singolo chip contenente circuiti che in passato occupavano molto spazio, porta all'esplosione dei personal computer alla fine degli anni 70. Sistemi operativi sempre più semplici da usare fanno guadagnare al computer sempre più estimatori, ma è la rete di internet a tracciare una nuova strada verso un nuovo modo di vivere e acquisire informazioni. Seth Porge, redattore tecnico di Maxim. Prima, per vedere la Grande Muraglia, bisognava andare in Cina. Se volevi conoscere la quotazione di un'azienda, dovevi contattare un broker. Il personal computer è una finestra sul mondo intero. Fotografie, video, musica, diapositive, tutti i contenuti possibili e immaginabili a pochi istanti di distanza. La possibilità di accedere istantaneamente alle informazioni cambia il modo in cui gli americani considerano le proprie finanze, trasformando comuni cittadini in operatori di mercato. Nell'era post-informatica, quasi il 50% delle famiglie americane possiede azioni e obbligazioni. Art Cashin è membro dell'NYSE da 47 anni. Il comune cittadino dell'Ohio può cavarsela bene quanto un operatore di Wall Street. L'accesso immediato alle informazioni è un grande vantaggio. Il gadget numero 4 potrebbe non essere tecnicamente sofisticato come il computer, ma ha avuto un impatto addirittura maggiore sul genere umano, la siringa ipodermica. Almeno una persona su 10 ammette di averne paura. Ma nessuno può negare che questo oggetto che suscita terrore salvi vite ogni giorno. Quanto è importante il gadget numero 3? Da quando è entrato nei nostri salotti dopo la Seconda Guerra Mondiale non li ha più lasciati. Il televisore. Ci ha trattenuti, informati e spesso ha cambiato la storia. Tim Wu, autore di Master Switch. Era nata una tecnologia in grado di raggiungere centinaia di milioni di persone che rimanevano sedute ad ascoltare obbedienti tutto quello che veniva trasmesso. Un'idea completamente nuova nella storia dell'umanità. Jim Meigs, redattore capo della rivista Popular Mechanics. Il televisore ci ha dato un'immagine più ampia di quello che accade nel mondo, come ad esempio la guerra del Vietnam. Dan Rather si è fatto le ossa raccontando i combattimenti nelle giungle del Vietnam. La guerra del Vietnam è stata la prima guerra trasmessa in televisione. Prima le battaglie non erano raccontate in diretta. Ci ha offerto immagini vivide. Non c'era bisogno di immaginare, si vedeva. E ha portato alla protesta contro la guerra nei salotti di tutto il mondo. Un conto è leggere di un conflitto, tutt'altra cosa è vederlo nel proprio salotto. La televisione ha avuto un ruolo molto importante nel cambiare l'opinione pubblica nei confronti della guerra. Gadget numero 2. Secondo i nostri esperti, la televisione ha semplicemente percorso una strada tracciata da questo gadget. La radio. È stata il primo mezzo di comunicazione capace di influenzare milioni di persone. La radio conserva la propria importanza e si rifiuta di finire nel dimenticatoio. Robert Thompson, professore di cultura televisiva e popolare, Università di Syracuse. La radio ha introdotto una cultura enorme, inarrestabile e accessibile semplicemente premendo un interruttore. Questo ha cambiato profondamente la vita nelle case americane. Ma la radio non è nata come mezzo di intrattenimento. La tecnologia della radio a onde corte è stata usata inizialmente dai militari per le comunicazioni dalle navi alla terraferma durante la Prima Guerra Mondiale. Durante la depressione, il presidente Franklin Roosevelt usa una serie di trasmissioni radiofoniche intitolate Chiacchierate al caminetto per rassicurare la nazione. Glenn Derin, redattore tecnico della rivista Popular Mechanics. Fu una mossa politica geniale, perché quei discorsi permisero al presidente di trarre profitto da una tecnologia e di dare l'impressione di avere un rapporto personale con tutti i cittadini del paese. Tim Wu, autore di Master Switch. Il primo vero fruitore fu il regime nazista. Usò la radio per convincere un'intera nazione a sollevarsi e a conquistare il mondo. Se si vuole un esempio dell'impatto della radio sulla storia, è questo. Malgrado l'avvento della televisione e di internet, la radio ha conservato la propria influenza. Oltre 236 milioni di persone la ascoltano ancora ogni settimana. Tim Wu. La ragione dell'inossidabilità della radio risiede nell'importanza dell'automobile. I dati di ascolto delle trasmissioni radiofoniche sono impressionanti, superiori a quelli della televisione. Soltanto nel 2011 ne sono stati venduti 95 milioni di esemplari e ne esistono già miliardi in tutto il mondo. Il numero uno dei gadget che hanno cambiato il mondo è lo smartphone! La genialità degli smartphone consiste nell'incorporare il telefono cellulare, l'agenda personale e il computer in un piccolo dispositivo tascabile. Lo smartphone ha persino suscitato una rivoluzione, la rivoluzione delle applicazioni. Scaricate per la prima volta nel luglio del 2008, le applicazioni per telefoni cellulari sono destinate a raggiungere i 25 miliardi di vendite nel 2015. Una cifra pari agli incassi di Hollywood e dell'industria dei videogiochi messi insieme. Glenn Derin, redattore tecnico della rivista Popular Mechanics. Il telefono cellulare è il gadget dei gadget. Una volta che si comincia a usarlo, altera completamente la vita. Avete ascoltato il documentario realizzato in collaborazione con History Channel dal titolo 101 gadget che cambiarono il mondo. Regia Walter Gottlieb, titolare dei diritti Fox International Channels Italy, casa di produzione EITN. Vi ricordiamo inoltre che la versione integrale del documentario andrà in onda domani, domenica 9 giugno, alle 8.45 su History Channel. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Anita Panizza. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.